Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che seguiremo la chiaramente Bersani è salito poco fa al Quirinale e vedremo appunto se, come da ogni previsione, gli verrà dato l'incarico di formare un nuovo governo. Quindi seguiremo in diretta anche tutto quello che riguarda la formazione del nuovo governo. Ripeto, il segretario del PD è arrivato al Quirinale e lo daremo in diretta, chiaramente. Per quello che riguarda invece la giornata economico-finanziaria, anche oggi più che Cipro tiene banco Mosca, perché Mosca ha detto di non essere interessata alle proposte che sono arrivate da Cipro, e questo complica la vicenda, anche perché Angela Merkel, la cancelliera tedesca, ha avvisato Cipro: non metta troppo alla prova la pazienza dei paesi dell'area euro, non c'è molto tempo, è urgente un piano. La banca del Pireo, tra l'altro, che è la terza banca in Grecia, acquisterà filiali di banche cipriote, delle banche cipriote Cyprus Bank, Laiki Bank ed Hellenic Bank. Siamo in attesa di novità da Cipro, perché già oggi a metà giornata il portavoce del governo cipriota ha detto: nelle prossime ore si deciderà il destino del paese. Su questo ci sono pochi dubbi. Ancora su altro tema riguarda i debiti della pubblica amministrazione, è un tema che stiamo seguendo da intere settimane. Allora, ieri abbiamo raccontato come, dopo il via libera europeo arrivato la settimana scorsa, per cui l'Italia può pagare tutte le imprese almeno 70 miliardi di euro, le imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, perché Bruxelles ha deciso che questi soldi, che aumenteranno per forza il deficit, non verranno conteggiati nel deficit che serve per i parametri di Maastricht, verranno conteggiati in maniera flessibile. E quindi ieri il governo se ne è uscito con questo piano: 20 miliardi nel 2013, 20 miliardi nel 2014. Però attenzione, su questo il presidente di Confindustria ha detto: insomma, non è esattamente quello che volevamo, siamo un po' delusi. Aspettiamo di vedere quali saranno le procedure. Ci attendevamo che il governo prendesse e rendesse operativo il provvedimento nella sua interezza. Noi ci aspettavamo un pagamento di 48 miliardi, la previsione di 20 più altri 20. Siamo comunque soddisfatti, perché è stato messo al centro del Consiglio dei Ministri come tema. E in realtà, da quello che poi abbiamo scoperto, ieri c'è stato anche una diversità di vedute tra il ministro Grilli e il ministro Passera. Passera era infatti per arrivare a un decreto subito, da fare subito il decreto attuativo, chiamiamolo così. Grilli ha detto: lo potrà fare questo governo o il prossimo governo. Però a questo punto manca il decreto legge per stabilire la modalità del rimborso. Una volta che il governo ha individuato le somme, 20 miliardi quest'anno e 20 il prossimo, manca il decreto legge. Diciamo che è sempre l'ultimo miglio in questo paese, anche dal punto di vista legislativo. Gli annunci, le decisioni, poi però... un po' come col CIPE, quando i soldi li ama ma non li sblocca. Anche in questo caso, finché non c'è il decreto legge, stiamo ragionando di un'intenzione. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Di questo parleremo, ne parleremo anche del rapporto banca e imprese con l'amministratore delegato del gruppo BNL, come annunciato. Parleremo di Cipro e daremo aggiornamenti chiaramente appena dovesse uscire il segretario del PD dall'incontro con il Presidente della Repubblica al Quirinale. Ripeto, con ogni probabilità gli verrà conferito il mandato esplorativo per vedere se c'è la maggioranza in Parlamento per avere un nuovo governo. La borsa come va? Più 0,64%. Il FTSE MIB, quindi Milano, è l'unica borsa positiva in Europa, di quelle più importanti, nel senso che Parigi perde lo 0,31, Francoforte lo 0,33, Londra più 0,40 in effetti dell'area euro, e poi l'America più 0,48%. Perché Milano va bene? Beh, perché vanno bene titoli come Ferragamo più 4,81, Buzzi Unicem più 3,60, Generali più 3,40, Campari più 2,30, Fiat più 2,30 e Fiat Industrial, quindi la parte camion e trattori, più 2%, Enel più 1,60, Luxottica più 1,30. Sono invece in flessione le banche, ma in alcuni casi si tratta anche di realizzi di fine settimana. Popolare Emilia Romagna meno 2,91, tutte le popolari molto hanno guadagnato in questi giorni dopo che la Popolare di Milano ha dato il via libera, cioè ha confermato che vuole trasformarsi in una SPA, e quindi, come abbiamo detto in questi giorni, molti ragionamenti sulle banche popolari. Dicevo, il Banco Popolare perde il 2,71%, Ubibanca il 2,70%, Unicredit l'1,60%, e poi invece di non bancario A2A meno 1,30% come Parmalat. Rapidamente le altre notizie in breve. L'euro sul dollaro a quota 1,29,79, quindi abbastanza stabile. Dicevamo di Cipro, in realtà c'è anche un altro caso oggi che riguarda l'Ungheria. L'agenzia di rating ieri in serata ha tagliato il voto del debito ungherese da AAA a AAA meno, è un gradino sopra il livello di spazzatura. Il voto di Cipro è stato tagliato a CCC e quindi con un outcome, una prospettiva negativa. Secondo alcune agenzie, poco fa la Banca Centrale Europea avrebbe rigettato le modifiche al piano di salvataggio proposto dal Parlamento cipriota. La Banca Centrale Europea è importante perché è lei che poi deve sbloccare i fondi per le banche cipriote in difficoltà. Dicevo, Mosca ha detto di non essere interessata alle proposte di Cipro. E per il resto, sostanzialmente, una parzialmente buona notizia arriva dal New York Times, secondo cui l'uscita di Cipro dall'area euro avrebbe un effetto devastante sui cittadini ciprioti, ma poco, un effetto minimo sul sistema finanziario europeo rispetto a quello che si sarebbe verificato se fosse uscito dall'euro invece la Grecia. Ancora per quello che riguarda l'Italia e i consumi, nel rapporto oggi diffuso dalla Confcommercio nell'appuntamento annuale a Cernobbio, praticamente la stima sull'economia italiana nel 2013 viene peggiorata e non di poco, meno 1,7% del PIL italiano. Fino adesso abbiamo ragionato di un 2013 con un meno 1. Mo siamo già al meno 1,7, io non vorrei rivedere il film visto nel 2012, per cui da un meno 1 a un meno 1,5, a un meno 2, poi meno 2,4%. La Confcommercio calcola che la pressione reale delle tasse su chi le paga sia di oltre il 54%. Quella apparente è del 44,8%, ma quella reale del 54,3%. E poi prosegue la Confcommercio: vi sarà nel 2013 un vero e proprio boom di poveri. Il numero di persone assolutamente povere quest'anno in Italia supererà quota 4 milioni, quindi si supererà ampiamente i 3 milioni e mezzo certificati dall'Istat per il 2011. E stiamo parlando del 6% della popolazione contro il 3,9% del 2006, un milione di persone in più. Almeno da quando è iniziata la crisi, 1,5 milioni in realtà sono i poveri in più da quando è iniziata questa crisi. E poi una nota interessante, sempre del Centro Studi di Confcommercio: gli italiani lavorano molto più dei tedeschi, ma la produttività in Italia è più bassa. lavorano molto anche più di tedeschi, soprattutto se sono imprenditori o lavoratori autonomi. Succede anche in altri paesi. La cosa sorprendente è che gli occupati italiani lavorano sostanzialmente 1774 ore a testa, il 26% in più dei tedeschi, il 20% in più dei francesi. Però rispetto a noi i tedeschi producono il 25% in più e i francesi quasi il 40% in più. Ancora una buona notizia arriva dalla Commissione Europea, che ha appena effettuato il pagamento di 2.600.000 euro dal Fondo per la Globalizzazione per aiutare il reinserimento lavorativo di 500 dipendenti di 10 aziende del settore motociclistico in Emilia-Romagna che hanno perso il lavoro a causa di un calo della domanda in Europa. Non c'entra nulla in questo caso il terremoto. E poi però, mentre la Confcommercio, adesso non voglio prendermela con nessuno in particolare, ma mentre la Confcommercio fa notare che ci sono 1,5 milioni di poveri in più dal 2006, che siamo a 4 milioni, è interessante vedere come l'inchiesta per evasione fiscale che ha coinvolto l'immobiliarista Francesco Bellavista Caltagirone, che ha già trascorso 8 mesi in carcere per le inchieste sui porti di Imperia e Fiumicino ed è tornato in cella martedì per la terza volta. Il sequestro, dicevo, operato per 145 milioni di euro di suoi beni. Ora voi direte, perché è così importante? L'imprenditore risulta nullatenente e ha la residenza fiscale in Lussemburgo, però gli hanno sequestrato 145 milioni di euro. Ma io non so, arrivano un po' tardi forse. Uno nullatenente che ha uno yacht lungo 71 metri, battente bandiera di Madeira, 100 milioni di euro valore, un aereo tipo Falcon, è stata una società lussemburghese, 30 milioni di euro, 23 immobili che valgono circa 15 milioni di euro, di cui 18 in Italia, la villa a Capri, a Venezia, a Milano, a Roma, 5 in Costa Azzurra. Ora, per carità, si poteva fare anche un controllo incrociato prima, forse, non lo so. Un'altra buona notizia invece arriva questa volta dalla Germania, perché nel 2012 la Deutsche Bank ha tagliato di circa un terzo i compensi per i propri top manager e per i membri della presidenza rispetto al 2011. Sostanzialmente hanno guadagnato i due copresidenti poco meno dei 10 milioni riconosciuti invece all'ex presidente, lo svizzero Josef Ackermann. Le remunerazioni per i due copresidenti sono state di 4,8 milioni a testa e dice Deutsche Bank sono chiaramente al di sotto della media del settore. Secondo me ce la possono fare comunque, ma la buona notizia, dicevo, è che complessivamente Deutsche Bank ha distribuito ai suoi top manager 26 milioni di euro di compensi contro i 40 milioni dell'anno prima. (349) 238 6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Raccontiamo però anche oggi, purtroppo, alcuni casi così un po' che ci lasciano molto molto perplessi, di sprechi ma anche di furberie di questo paese. Poi partiamo invece con il resto dei nostri appuntamenti, in attesa appunto di darvi anche in diretta quello che accadrà al Quirinale. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, c'è una giustizia un po' strana in questo paese, nel senso che, per carità, leggere che un uomo di 32 anni di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è stato condannato per aver rubato due vasetti di Nutella a 45.000 euro di provvedimento giudiziario, che a pochi precedenti i due vasetti valevano 6 euro, mi sembra un po' eccessivo. È infatti la condanna convertita in pena pecuniaria. 45.000 euro, dicevo, in realtà il giovane è incensurato, la pena verrà sospesa, la condanna è virtuale, resterà sulla fedina penale e se vorrà potrà anche non pagare, perché suona più come un ammonimento questa cosa. In realtà io darei condanne anche molto severe, non solo a chi ruba due vasetti di Nutella, ma anche, per esempio, come nel caso di Genova, ai quasi 5.500 personaggi, non so come chiamarli, furbetti, beccati a fare appunto i furbi col parcheggio dei disabili. Posteggiano negli spazi riservati senza averne diritto quasi 700 multe nei primi tre mesi del 2013. Addirittura 280 contrassegni per disabili ritirati nel 2012 taroccati. E per fortuna distribuirà un nuovo contrassegno al Comune di Genova per i 9.000 disabili genovesi che potranno usufruirne. Io ricordo sempre quella bellissima pubblicità, Progresso mi sembra, che diceva: vuoi il mio posto auto, prenditi anche la mia disabilità, no? Nel frattempo a Palermo scoppia la grana del fondo per la formazione professionale, il fondo sociale, perché il bando dal valore complessivo di 900 milioni di euro per i corsi di formazione ha copertura solo per il primo anno, copertura certa. Il Fondo Sociale Europeo è già stato prosciugato perché 300 milioni sono stati dirottati al piano giovani, però ci sono varie polemiche. L'ex dirigente Ludovico Albert dice: attenzione, i soldi non sono spariti, i fondi della seconda annualità, 286 milioni, li abbiamo messi in sicurezza, altrimenti sarebbero tornati a Bruxelles. Allo studio comunque un nuovo bando con un nodo che rimane intatto: come sarà garantita la copertura finanziaria, considerando che per mantenere tutti gli 8.000 formatori servono almeno 300 milioni di euro in una regione sull'orlo del collasso, la regione Sicilia, perché chiuderà il bilancio 2013 con un buco di 2 miliardi, metà dei quali derivanti dal buco dei conti del 2012. Noi ragioniamo di banche e di rapporto con le banche, perché resta da un lato tutto il tema dei rimborsi della pubblica amministrazione alle imprese, capire se verrà utilizzato anche il nodo bancario, ma poi resta anche il tema di Cipro e dei prestiti delle banche italiane in calo rispetto alla media degli ultimi mesi, ossia il calo è rallentato, però continuano a calare i prestiti concessi alle nostre imprese. Ne parliamo con l'amministratore delegato del gruppo BNL Italia, Ben Pepe Ribà, Fabio Gallia, perché tra l'altro due giorni fa hanno ottenuto un'iniziativa che a noi sta molto a cuore, avendo un programma in questa radio come Salvadanaio, si chiama Educare Day BNL. È una giornata dedicata all'educazione finanziaria, durante la quale sono previsti in circa 300 località italiane oltre 500 seminari gratuiti aperti ai clienti. La manifestazione tra l'altro si inseriva nelle attività per i 100 anni della BNL. Allora parliamo di banche e imprese, anche se vedo le telecamere puntate sulla porta, diciamo, dove si sta tenendo l'incontro tra il Presidente della Repubblica e il Segretario del PD Bersani, e quindi iniziamo però anche l'intervista, perché sto guardando. Facciamo una bella cosa, andiamo, chiedo un po' di pazienza, vediamo se sta uscendo Bersani, se... Mi alzate il volume, per favore. No, non ancora. Ecco che però si apre la porta. Lo chiedo un attimo di pazienza a tutti, perché si sta aprendo la porta del studio del Presidente della Repubblica e sta uscendo, lo sto guardando assieme a voi, in questo momento il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che terrà brevissimo, tra qualche secondo, la sua relazione con i giornalisti. Sentiamo. Bersani, Napolitano che sta per Non è ancora iniziata il... Eccolo. Si apre oggi una fase decisiva per dare all'Italia un nuovo governo sulla base dei risultati elettorali. L'incarico che sto per dare costituisce il primo passo del cammino che dovrà condurci al più presto al raggiungimento dell'obiettivo. Dico al più presto perché il Paese è premuto da problemi che esigono la nascita di un esecutivo e l'avvio di una normale e piena attività legislativa, al di là dei provvedimenti urgenti che il governo dimissionario riterrà di adottare ed è in grado di adottare. Ma reagisco a certe affermazioni che si ascoltano nel dibattito pubblico, infondatamente polemiche per il tempo che stanno prendendo gli adempimenti post-elettorali. Non è ancora trascorso un mese dalle elezioni del 24 febbraio, da una settimana si sono insediate le nuove Camere e mi complimento per il fatto che da ieri si sono definiti i rispettivi uffici di presidenza, significativamente rappresentativi di tutte le componenti politiche. Nella fase che ora si apre occorre procedere senza sterili lungaggini, ma con grande ponderazione ed equilibrio. E a chi se la prende con le presunte lentezze italiane, segnalo che nei due paesi di democrazia parlamentare in cui si sono svolte delicate consultazioni elettorali tra l'autunno scorso e l'inizio di quest'anno, sono occorsi per la formazione di nuovi governi circa 2 mesi, in Olanda 54 giorni e in Israele 55 giorni. L'essenziale è mostrare a noi stessi, all'Europa e alla comunità internazionale quanto apprezziamo e coltiviamo il valore della stabilità istituzionale, non minore di quello della stabilità finanziaria. Da entrambi dipende il grado di affidabilità del nostro Paese. L'Italia deve darsi un governo operante nella pienezza dei suoi poteri, occorre assicurare la vitalità e fecondità della nuova legislatura, del nuovo Parlamento. È così che possiamo contribuire anche al consolidamento delle istituzioni europee, del loro impegno e del loro ruolo in un periodo così difficile e decisivo per il nostro comune futuro. Ci assumeremmo altrimenti una grave responsabilità, tradiremmo le attese che ci sono state manifestate anche nei giorni scorsi dai rappresentanti di paesi amici, in primo luogo, ma non solo europei, convenuti a Roma per rendere omaggio al nuovo pontefice. Dalle consultazioni che ho condotto ieri e l'altro ieri con esponenti di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, già nel passato scese in campo o di nuova formazione, partiti, movimenti, liste, ho tratto il senso di una larga condivisione della necessità istituzionale di fondo che ho ricordato. Diverse sono state naturalmente le indicazioni che mi sono state prospettate circa il modo di risolvere la crisi di governo e di aprire senza indugio il confronto in Parlamento sulle questioni che sono state al centro delle preoccupazioni e delle scelte dei cittadini elettori. Non si può ignorare la vastità e acutezza del malessere sociale che si è manifestato nel voto, insieme con l'asprezza dell'insoddisfazione e della polemica nei confronti del sistema dei partiti e dei vigenti meccanismi politico-istituzionali. Di qui istanze di radicale cambiamento che mi sono state manifestate dal Movimento 5 Stelle, confortato da un rilevante successo elettorale. Altre importanti forze politiche hanno nel corso delle consultazioni, espresso a loro volta una volontà di deciso cambiamento da perseguire attraverso riforme solo avviate o da tempo invano attese. Ma non tocca certo a me vagliare piattaforme programmatiche su cui dovranno pronunciarsi partiti e gruppi parlamentari nelle prossime discussioni finalizzate alla formazione del governo. Si può avere un po' d'acqua? A tutti, credo di poter dire, è apparsa chiara la portata delle sfide da affrontare. In considerazione di ciò si è ricavata da parte della coalizione guidata dall'onorevole Berlusconi, ma anche da parte di altri, l'esigenza di un governo di vasta unione, che conti innanzitutto sulle due maggiori forze parlamentari, ovvero, come si dice in linguaggio europeo, di grande coalizione. Ma le difficoltà a procedere in questo senso sono apparse rilevanti, per effetto di antiche e profonde divergenze e contrapposizioni che si erano attenuate nel corso del 2012 in funzione del sostegno al governo Monti, ma sono riesplose con la rottura di fine anno. È un fatto che, se si erano realizzate importanti convergenze, ad esempio con la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, sono rimaste bloccate proposte pur concordate di modifica di vari punti della seconda parte della Carta e intenzioni dichiarate di riforma della legge elettorale. Peraltro, anche negli scorsi anni, caratterizzati da una dialettica bipolare tra coalizioni di governo e di opposizione, avevo sempre messo in luce l'esigenza di larghe intese tra gli opposti schieramenti su scelte di interesse generale, da quelle relative a garanzie di equilibrio istituzionale alla riforma del sistema politico costituzionale, agli impegni di politica europea, internazionale e di sicurezza. Insisto sulla necessità di larghe intese di quella natura a complemento del processo di formazione del governo, che potrebbe concludersi anche entro ambiti più caratterizzati e ristretti. Occorrerà comunque, per salvaguardare la posizione dell'Italia e anche per rafforzarne l'assertività e capacità di spinta innovativa nel concerto europeo, forte spirito di coesione nazionale. Al di là di quelle che potranno essere normali dialettiche, maggioranza di governo, opposizione. Anche quella parte della popolazione che più soffre per la crisi economica e sociale e che più sollecita cambiamenti effettivi è interessata allo sviluppo di confronti concreti e costruttivi piuttosto che a scontri totali e paralizzanti. Si parte intanto con l'impegno a far nascere un nuovo governo. Ho ripercorso la prassi costituzionale quale si è venuta consolidando ed evolvendo per ciò che concerne il procedimento volto alla formazione del governo. Come ha scritto un autorevole studioso e interprete della nostra legge fondamentale, Enzo Cheli, particolare stringatezza presenta in essa la disciplina relativa alla nomina del Presidente del Consiglio, che la Costituzione, cito, subordina soltanto al fine della formazione di un governo in grado di ottenere la fiducia delle Camere. Fine della citazione, consentendo quindi al capo dello Stato, specie in assenza di risolutivi risultati elettorali, la necessaria discrezionalità anche attraverso la creazione di diverse figure di incarico. Dinanzi alla complessa articolazione delle posizioni emerse nelle consultazioni, sono giunto alla conclusione che il destinatario dell'incarico, nei termini che preciserò, vada individuato nel capo della coalizione di centrosinistra da essa designato anche con una procedura di partecipazione democratica nella persona dell'onorevole Bersani. Tale coalizione, avendo ottenuto, sia pure grazie a un margine di vantaggio assai ristretto sulla coalizione di centrodestra, la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera e una posizione di maggioranza relativa al Senato, è obiettivamente in condizioni più favorevoli per ricercare una pur difficile soluzione al problema del governo, attraverso tutti gli opportuni contatti con le altre forze politiche rappresentate in Parlamento e non soltanto con esse. Ho pertanto conferito, in continuità con eloquenti, appropriati e non lontani precedenti, all'onorevole Luigi Bersani, Pierluigi Bersani, l'incarico di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, tale da consentire la formazione di un governo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 94 della Costituzione, abbia la fiducia delle due Camere. Egli mi riferirà sull'esito della verifica compiuta appena possibile. Questo quindi l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che come da attesa ha confermato un incarico, una volta si sarebbe detto un mandato esplorativo, a Pierluigi Bersani, segretario del PD, per vedere se vi sia la maggioranza, chiaramente sia la Camera che al Senato, e poi riferirà al Presidente della Repubblica. Faccio notare che Napolitano ha iniziato il suo intervento con nello stile del Quirinale, ci mancherebbe, ma con un certo puntiglio polemico rivolto sia all'interno, a chi, se non ricordo male, varie dichiarazioni del Movimento 5 Stelle diceva stiamo perdendo tempo, ma anche e soprattutto all'estero. Ha detto Napolitano: la stabilità istituzionale non è meno importante di quella finanziaria. Non è vero che ci abbiamo messo che abbiamo messo troppo tempo a dare un incarico. Un mese fa si tenevano le votazioni, meno di un mese fa, una settimana fa le nuove Camere riunite, già ci sono i presidenti di Camera e Senato, e quindi ha fatto anche notare, a mio avviso con uno spunto anche polemico, ripeto, nei toni del Quirinale, che in Olanda e in Israele ci sono voluti molti, molti più giorni. E poi ha ripercorso il tentativo di trovare una grande coalizione, quindi maggioranza, diciamo, i due principali partiti, un po' sul modello della maggioranza che sostiene Monti e come auspicato da Silvio Berlusconi, ma le difficoltà oggettive, difficoltà a procedere verso un governo di coalizione. Adesso sta per parlare il Presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo governo e di valutare, di esplorare e vedere se questo governo possa avere una maggioranza parlamentare, Pierluigi Bersani. Adesso lo ascolteremo, chiedo un po' di venia per quello che riguarda il palinsesto, poi ascolteremo anche la pubblicità, ma dopo, e anche il traffico e anche tutti i nostri ospiti, ovviamente sono momenti delicatissimi per il paese. Ecco Pierluigi Bersani. Grazie, io ho ringraziato e ringrazio qui il Presidente Napolitano per l'incarico che ha voluto conferirmi. Io svolgerò questo incarico con la massima determinazione e anche ricercando quella ponderazione, quell'equilibrio a cui il Presidente ha voluto fare riferimento. E cercherò di corrispondere a questo incarico nel solco delle parole che avete ascoltato dal Presidente Napolitano, e cioè l'avvio di una legislatura che abbia un governo in condizioni di generare il cambiamento necessario, atteso dagli italiani, e un percorso di riforma che sia in grado di realizzare quel che non si è visto fin qui, e cioè aspetti rilevanti di riforma costituzionale e politico-elettorale. Ecco, dentro queste intenzioni, questo solco, io mi metterò al lavoro, certamente con un primo necessario riferimento alle forze parlamentari, che chiederò di incontrare, ma senza dimenticare anche un dialogo, un colloquio con i principali soggetti sociali. Comincerò da subito. Grazie a tutti. Grazie. Una. Senta, come rappresentante del Movimento 5 Stelle, al quale lei si è rivolto nelle scorse settimane, nel momento, ha detto oggi che qualora lei prendesse un impegno concreto sul tema del finanziamento sarebbe disposto a aprire un dialogo. Io mi rivolgo. Rispondo. Io nell'incontrare le forze parlamentari, le forze politiche, cercherò di andarci con delle idee piuttosto chiare. Con poche parole, ma con delle intenzioni precise sui percorsi di riforma. Certamente i percorsi di riforma devono riguardare anche il sistema politico, non c'è dubbio. E ci andrò però con delle mie idee, naturalmente, con delle mie idee. Grazie a tutti. Molto rapido l'intervento di Pierluigi Bersani, ha detto dialogherò anche, ascolterò anche i principali soggetti sociali, esporrò, l'avete appena sentito, una domanda di un giornalista, è chiaro che le riforme dovranno riguardare anche la politica, quindi legge elettorale, da come capiamo noi, e numero, e anche composizione delle Camere, del Senato e della Camera. Lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano aveva fatto accenno al fatto che vi fossero già accordi bipartisan per fare alcune riforme di carattere costituzionale che poi si sono bloccate quando è venuto meno l'appoggio al governo Monti. minuti, come avete sentito in diretta, quindi c'è l'incarico a Pierluigi Bersani per formare un nuovo governo. A chi mi chiede al 349-238-6666 che cosa c'entri questo con un programma di economia, non rispondo nemmeno oggi, perché non avete capito quanto delicata sia la situazione anche dal punto di vista economico-finanziario. In questo caso non posso farci niente. Invece chiedo a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Un commento a caldo, poi torniamo sugli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, a mio avviso c'è più materiale sul Presidente della Repubblica che su Bersani, però chiaramente smentiscimi se non la ritieni così. No. Mi ha impressionato, da un lato, vedere, ripeto, con i toni che può permettersi il Quirinale, una polemica anche molto sentita con chi ha accusato di lungaggini, si perde tempo, no? Sia in Italia che all'estero. Sì, su questo ha citato anche dei casi, se non ricordo male, di Israele, per esempio. E dell'Olanda, Olanda e Israele. Hanno messo quasi due mesi, mentre invece noi abbiamo fatto presto da questo punto di vista. Quindi ha difeso questa posizione e poi ha fatto un intervento molto lungo e articolato. Io non ricordo, diciamo, interventi. Hai ragione. Articolati e lunghi per queste occasioni. Questo a testimonianza della difficoltà della situazione in cui si trova non solo Napolitano, ma il paese da questo punto di vista, e della difficoltà di uno sbocco politico per questo tentativo che farà Bersani, che pure ha detto lo farà con grande determinazione, quindi è deciso ad arrivare in porto, ma le condizioni oggettive di contesto sono assolutamente difficili, e quindi questo anche il presidente Napolitano non lo ha nascosto, lo ha detto con molta chiarezza, compreso il fatto che è molto difficile in queste condizioni, ad esempio, andare a un governo di larghe intese. Sì, questo è stato l'altro passaggio in cui Napolitano ha ricordato, da un lato, di non ignorare il malessere sociale emerso dal voto, e dall'altro però ha detto attenzione, vi è stata una difficoltà oggettiva a procedere verso una grande coalizione, difficoltà rilevanti, citando che questa, come questa fosse comunque l'intenzione del leader del PDL Berlusconi, però non ci sono state le condizioni. Guido, la domanda è molto semplice adesso. La maggioranza c'è? Perché io non la vedo, però. No, la maggioranza non c'è. Quindi Bersani adesso proverà a formarne una, a cercarne una. Se Grillo, il Movimento 5 Stelle, manterrà la posizione che è stata espressa fino a questa mattina, mi pare che non ci sia nessuna possibilità. Quindi viceversa, se invece dovesse aprire, stata facendo nelle trattative e negli incontri che avrà Bersani, qualche apertura, si può immaginare che ci sia forse una maggioranza trovata, non dico casuale, ma insomma trovata, ecco, però, strada, ecco, facendo. Ecco. Sì, però allora, dunque, di maggioranze risicate ne abbiamo già viste, penso al secondo governo Prodi. Esatto. E anche all'ultima fase dell'ultimo governo Berlusconi, certo, quando vennero meno 8 voti fondamentali. Lo ricordo a chi continua a scrivere: Berlusconi fu mandato via dallo spread deciso dai mercati stranieri. No, mancarono la maggioranza. Comunque, detto questo, allora, maggioranze risicate è un conto, maggioranze variabili, al di là della vecchia DC, le geometrie variabili le vedo dure. E cioè, se Grillo non ci dovesse stare, Guido, sì. Allora, ci sono due possibilità: o fa un governo cosiddetto di scopo, come vorrebbe anche Quirinale, ma non so se possa farlo Bersani, cioè chiede... No, a quel punto è chiaro che cade l'ipotesi di Bersani, quindi Bersani dovrà rinunciare perché non troverà la maggioranza in questo caso, e quindi torniamo all'ipotesi di un governo di scopo, istituzionale, insomma, chiamiamolo come vogliamo, un governo del Presidente, ma allora diciamo cambia totalmente il film, e quindi non più alla ricerca di una maggioranza come quella che proverà a fare Bersani, ma un governo appunto di scopo, con un obiettivo limitato nel tempo e con sperabilmente anche con la riforma della legge elettorale e diciamo delle elezioni abbastanza vicine. E quindi riformare la legge elettorale, forse le Camere, dubito però un governo di scopo riesca a fare una riforma costituzionale, no? Riforma costituzionale mi sembra ogni tanto viene fuori, a inizio legislatura viene sempre fuori questa idea della legislatura costituente, sì. E poi in realtà la legislatura costituente significa, tradotto dal politichese, poi spesso significa che le elezioni si avvicinano. Esatto. E questa mi sembra un'ipotesi più probabile, francamente. Quindi tu resti dell'idea, se ho ben capito, che Bersani non ce la farà, sixtantibus rebus, cioè a questo... con questi dati di fatto di esatto. oggi, stante così le cose, diciamo. Per cui a questo punto rinuncerà, andrà dal Presidente della Repubblica e dirà non ho la maggioranza, la maggioranza non può essere variabile, sì. così variabile. A questo punto Napolitano sarà obbligato a dare l'incarico a una personalità, diciamo così, super partes. Potrebbe esempio, scusami se ti interrompo, potrebbe esempio ripetersi lo schema del 93, quando fu chiamato l'allora governatore della Banca d'Italia, allora era Ciampi, si potrebbe ricorrere a una personalità di questo tipo, questa o altre personalità, si parla. E a questo punto un governo che dovrebbe fare la riforma della legge elettorale, forse qualcosa sui costi della politica e poi andare alle elezioni? No, non c'è dubbio. E ovviamente assicurare in questo breve lasso di tempo, è difficile immaginare le elezioni a giugno, quindi settembre. Diciamo la prima data forse utile è anche l'autunno, ma anche quella è insomma difficile, magari ecco nella primavera del 2014, e quindi arrivare con la riforma della legge elettorale e il mantenimento del tracciato dal punto di vista finanziario degli impegni presi con l'Europa. Quindi tu dici un anno alla fine? Beh, insomma, escludendo giugno, le due possibilità sono o in autunno o un anno. L'autunno è comunque alle porte, diciamo, se consideriamo anche la pausa. Io speravo che fosse la primavera alle porte, ormai arrivata, però giustamente i tempi della politica non seguono le stagioni. Quindi tu sei più propenso a un anno, diciamo, ho capito il tuo ragionamento, che siamo in chiusura. Grazie Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Alle 18:08 riprende Focus Economia, una puntata particolare perché, come avete sentito, abbiamo trasmesso in diretta sia l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo l'incontro con Pierluigi Bersani, l'annuncio che a Bersani è stato dato l'incarico per formare il nuovo governo, per vedere se c'è una maggioranza parlamentare per il nuovo governo, lo scetticismo comunque anche del nostro commentatore Guido Gentili, perché stante così le cose la maggioranza non c'è e quindi si dovrebbe andare a un incarico per un governo di scopo, un governo tecnico per fare alcune riforme a partire dalla legge elettorale e poi tornare a elezioni. Dicevo, torniamo adesso sui temi classici invece del programma, a partire dalla borsa. Milano ha chiuso con un più 0,70%, mentre Parigi ha perso lo 0,12%, Francoforte lo 0,30%, Londra 0,07%. E non poteva essere altrimenti a Londra. L'America più 0,56% borsa. Come sempre con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Per quello che riguarda i titoli, devo dire che oggi qualche realizzo sulle banche popolari oggetto di molto interesse dopo che la Popolare di Milano ha specificato che vuole trasformarsi in SPA, quindi perdere lo statuto di Popolare, quindi diventare più contendibile. Chiara Di Cristoforo, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Dicevo realizzi, visto che molte erano cresciute, e allora Popolare Emilia Romagna meno 2,91, Banco Popolare meno 2,80, UbiBank meno 2,70%. Li archiverei così questi tre titoli o no? Sì, direi di sì, perché sono stati proprio i tre titoli che nelle ultime settimane hanno segnato i rialzi più evidenti. Oggi sono proprio prese di beneficio quelle che vediamo, anche perché non ci sono motivi fondamentali, lo spread non è in tensione, sono proprio prese di beneficio sul comparto bancario. Ancora invece Unicredit perde l'1,60%, qui qualche notizia in più c'è su Unicredit? Beh sì, Unicredit oggi è stata insieme alle popolari quella che ha perso di più, anche qui il titolo comunque arriva da un periodo di forte rialzi, è stato l'unico titolo diciamo l'unico titolo di banca importante, insomma in di negativo, banche non bancarie, certo. Esatto, in territorio negativo. Oggi c'è stata un'emissione di un covered warrant, però anche qui i motivi sono fondamentalmente tecnici. Ok, e invece tra chi è andato bene, Ferragamo, qui ci sono i dati, gli utili, più 4,50%, l'utile è in aumento, no? Sì, l'utile è andato bene e soprattutto è migliore di quello che si aspettava il mercato, quindi il titolo è stato premiato, è andato abbastanza bene anche tutto il comparto del lusso, più 30% nel 2012 rispetto al 2011 l'utile netto, siamo a 106 milioni, ricavi consolidati totali di oltre un miliardo, anche qui un più 17%, siamo a tassi di cambio correnti, ma anche a cambi costanti la crescita dei ricavi è stata di oltre il 13%, anche gli analisti che hanno oggi analizzato i conti che sono arrivati, lo ricordiamo, ieri a borsa chiusa, hanno detto che i target saranno raggiunti in anticipo, quindi una buona notizia per un titolo che comunque è su livelli elevati ma che continua a fare performance decisamente positive. Tra i titoli che bene sono andati, anche se non fa parte dell'S&P MIB, c'è Unipol, più 10,40% e più 8% sulle privilegio, bene anche Fondiere Assai sul risparmio. E su Unipol, anche in questo caso, ieri abbiamo avuto i conti. Sì, anche qui c'è stato ieri sempre a borsa chiusa conti e incontro con gli analisti, con la comunità finanziaria. Unipol torna all'utile, al dividendo, un utile netto consolidato di 240 milioni, oltre quelli che avevano previsto nel piano industriale. C'è da dire che questo è il bilancio che consolida nel perimetro del gruppo anche Premafin e Fonsai e anche qui siamo in utile. Il ritorno al dividendo prevede una cedola di 0,15 euro per le ordinarie e di 0,17 per le privilegiate, quindi comunque un buon guadagno per gli azionisti con un payout del 58%. C'è da dire che è un gruppo che si sta, cioè che è tutto da definire ancora, quindi poi si vedrà quello che effettivamente diventerà. Sono andati come dicevi tu anche tutti gli altri titoli, da Milano, certo. Assicurazioni a Premafin, che anche Premafin ieri ha dato i conti, e Fonsai, quindi oggi la borsa premia, ma insomma stiamo a vedere quello che succede. Allora, due titoli opposti, Generali più 3,46%, Mediaset invece debole oggi alla fine meno 0,40%. Sì, Generali ha beneficiato della conferma del rating di Moody's che è arrivato stamattina prima dell'avvio delle contrattazioni. L'esame era iniziato a dicembre quando c'era stato l'annuncio della riorganizzazione delle attività italiane fatta da Generali, e Moody's dopo l'esame è giunta alla conclusione che questa riorganizzazione non indebolirà la protezione dei creditori della capogruppo triestina e quindi ha confermato il rating. Per Mediaset invece la giornata è stata in negativo soprattutto nella prima parte, poi alla fine in chiusura sta più o meno sui livelli di ieri. Qui Mediobanca oggi ha pubblicato un report molto dettagliato in cui taglia le stime sul mercato pubblicitario. Il report, tanto per capirci, si intitola Una strada lunga e accidentata. Questo insomma dà un po' il quadro di quello che sarà il futuro nei prossimi mesi per Mediaset, ma devo dire per tutto il comparto editoriale, non solo per Mediaset, non sono buone notizie nemmeno per noi quando la pubblicità langue o va male. Allora, tra i titoli minori e peggiori, tra i migliori, scusate, migliori e peggiori, anche tra i titoli minori, vedo Cicolella, vabbè, ieri Forte il Botto, oggi Realizzi, meno 4,32%, Amplifon, meno 4,50%. Sì, Amplifon è andata bene. Eh? Io ci sono caduta in pieno. Vai, meno 4,50 Amplifon, tanto il tecnico aspettava solo questo. Dai, no, non sto scherzando, meno 4,50, ripigliati. Il titolo è andato male oggi, anche qui è un titolo che è stato premiato recentemente, oggi prese di beneficio scattate e segna la seconda performance peggiore di tutto il listino. Cipro, dice il New York Times, se dovesse uscire dall'euro l'impatto sarebbe molto marginale per l'Europa, sicuramente minore di quello dell'eventuale uscita della Grecia. Però ci colleghiamo con Cipro, dove c'è ormai in pianta stabile l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorno. Roberto, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, Roberto, oggi ci attendevamo, anche perché Angela Merkel è stata molto dura, ha detto attenzione Cipro, non metta alla prova la pazienza dell'area euro, non c'è molto tempo, è urgente un piano, ma tra l'altro sembra che la Banca Centrale Europea abbia rigettato le modifiche al piano proposte del Parlamento di Cipro. A noi risultava che entro poche ore, ma ci risulta già da metà giornata, il governo cipriota dovesse proporre un altro piano. C'è questo altro piano B, C, D? È l'ennesimo piano B1, B2, è ancora in discussione, attenzione perché qua non siamo a Londra, i tempi ciprioti sono tempi piuttosto lunghi, nell'ultima settimana non c'è stata una volta che sono stati puntuali, quindi chi lo sa, potrebbe anche finire a tarda notte, però a questo punto voglio dire, dopo aver tirato la corda con i russi ed aver ricevuto il no dalla Russia, dopo aver tirato la corda con l'Europa, i ciprioti si trovano un po' in una situazione difficile, molto difficile, diciamo che il piano B o B1 o B2 come l'abbiamo chiamato, quello sui fondi di nazionalizzare il fondo pensione, è stato rigettato. Adesso c'è questa famosa proposta che sembra prenda piede di smantellare, di fatto, diciamo che smantellare e di avviare una parte alla liquidazione, perché rischierà di accadere questo, l'AICI, la Popular Bank, uno dei due istituti in crisi, e così rafforzare il primo istituto di credito cipriota, che è la Bank of Cyprus, cioè far confluire lì tutti i depositi garantiti, quelli sopra 100.000, quindi migliorare la sua, diciamo, il suo bilancio e ridurre i 5,9 miliardi che dovrebbero fornire per ottenere il prestito europeo. Però vi assicuro che non è facile, e oggi sono stato davanti al Parlamento a parlare con le centinaia, forse 1.000 dipendenti della banca in questione, e la situazione, vi assicuro, è veramente desolante, da questa gente che rischia di perdere tutto. Quindi tu non ti attendi, diciamo, a breve, ma forse nemmeno nella notte, la risposta cipriota, no? Una risposta dovranno darla, loro danno sempre delle risposte, però danno delle risposte che sono sempre non troppo chiare, non troppo precise, e non incontrano spesso, non soddisfano tutti i requisiti che gli sono richiesti, quindi vedremo, qualcosa dovranno tirare fuori dal cilindro. Perché per ora però è confermato che le banche saranno chiuse, oltre che la borsa, anche martedì? Le banche saranno chiuse anche martedì, e ci sono voci di misure di contenimento chiuse lunedì, probabilmente martedì o forse aperte, ma quando apriranno, si sta già parlando in questi giorni di misure di contenimento. Cioè uno non potrà prelevare più, diciamolo tutte, prelevare più di una certa somma. Sì, il deposito, esatto. Per evitare un'emorragia, perché anche se dovessero trovare un accordo con Unione Europea, mm-hmm, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, insomma, i cipriota adesso hanno paura, c'è una paura che ormai è diffusa, un panico, quindi devono fare qualcosa. Un po' sul modello di quello che capitò in Argentina, lì vengono bloccati proprio i prelievi dei conti correnti, col corallito si chiamava, se non ricordo male. Grazie a Roberto Bongiorno in collegamento con noi da Cipro. Dove? Così dico anche dove sei? Sono a Nicosia. Nicosia, la capitale. Sì, no, cioè, non in albergo, non al bar, a Nicosia proprio. Nicosia, in giro. A Nicosia. Grazie, buon fine settimana, Roberto Bongiorno. E adesso noi restiamo sui temi bancari, perché come dicevo, il gruppo BNL nel festeggiare i suoi 100 anni, 2 giorni fa, ha organizzato questa importante iniziativa di educazione finanziaria. Noi ci teniamo molto, perché fa parte anche del nostro palinsesto con Salva Danaio. Parliamo però anche di banche e imprese con l'amministratore delegato del gruppo BNL Italia, che fa parte del gruppo BNP Paribas, Fabio Gallia. Buonasera. Buonasera. Allora, restiamo sui temi di più stretta attualità. Dopo il via libera dell'Unione Europea, con delle polemiche anche da parte del presidente del Confindustria Squinzi oggi, il governo ha messo sul piatto 40 miliardi di euro, 20 più 20. Il vostro presidente, ossia il presidente dell'ABI, delle banche italiane, Patuelli, ha detto il governo può e deve risolvere la questione con un decreto facilissimo, con una riga e mezzo che preveda la possibilità di compensare i crediti con i debiti. Dice Patuelli, infatti, se io ho un credito di 10 verso lo Stato, ma devo pagare 50 di IVA o di altre tasse, li potrei portare a deduzione. Un giudizio su questo, ma anche sulla mossa del governo? Due numeri, i 70-80 miliardi di debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese non sono molto lontani da un 9-10% che è il totale degli impieghi che le banche fanno nei confronti del sistema imprenditoriale. Quindi è evidente che quando parliamo di 40 miliardi stiamo parlando di quasi 5 punti percentuali, quindi questo per indicare quella che è la portata delle cifre in gioco. Il fatto che soprattutto in queste ultime settimane anche il ruolo giocato dal mondo delle associazioni, l'apertura europea, il governo bene ha fatto, è un passo avanti molto importante. Credo che sia fondamentale porre l'accento sulla tempistica. Sì. Fondamentale in un momento come quello attuale porre l'accento sulla tempistica e emanare quanto prima il decreto per poter venire al pagamento nei tempi più rapidi possibili. Anche perché reputo che il circolo virtuoso potrebbe anche avere degli impatti positivi superiori rispetto a quelle che sono alcune stime che sono state fatte in questi ultimi mesi. E in tal senso anche osservare quello che è stato l'esempio spagnolo credo che sia incoraggiante. Per cui se c'è un'osservazione da fare è importante raggiungere un accordo per il decreto per sbloccare quanto prima il pagamento che arrivino nelle casse delle imprese. Ecco, ma secondo lei la strada da seguire deve essere quella spagnola con un intervento della Cassa Depositi e Prestiti, per esempio sugli enti locali, oppure, come suggerisce Patuelli, anche andare direttamente a compensare quelli che sono le tasse, quindi portare in deduzione? Ma guardi, probabilmente non entro nel merito, questo è un compito del governo, e credo che ci possa essere anche una combinazione delle due cose. Io pongo l'accento sul fatto che il fenomeno è conosciuto, il fenomeno non è, abbiamo visto soltanto italiano, la situazione economica potrebbe ricevere un importante impatto positivo nell'immediato qualora si provveda rapidamente allo sblocco di questi debiti. Ultimo tema di attualità, continua la stretta del credito alle imprese. A gennaio sono diminuiti dello 0,2% e da settembre 2011 c'è un meno 5% del denaro concesso dalle banche alle imprese, per una perdita complessiva di 46 miliardi di euro in meno che voi come banche del paese avete erogato alle imprese. E tra l'altro il Centro Studi Confindustria dice a questo punto le imprese soffrono per carenza di fondi. Ancora nel quarto rapporto dell'Osservatorio Nazionale sui distretti si scopre che il 32% delle imprese ha visto stringersi i rubinetti delle banche tra metà del 2012 e il 40% non si aspetta miglioramenti nel 2013. Praticamente un'impresa su tre dei distretti soffre di un credito che vorrebbe ma non viene erogato. Questo è il fronte delle imprese. Io so che voi dite, attenzione, noi però stiamo soffrendo come sofferenze bancarie perché sfioriamo mai i 130 miliardi di euro, che diventano 200 miliardi se contiamo anche gli incagli, cioè quei prestiti problematici che non sono ancora sofferenze ma rischiano di diventarlo. Però rischia di diventare un dialogo tra sordi. Come se ne esce? Perché queste sono imprese che i soldi li vorrebbero. Guardi, tema complesso, è difficile liquidare in due battute. Come se ne esce? Guardi, la vera medicina è riprendere a crescere. la vera medicina è... Però le imprese dicono, se voi non ci finanziate non riusciamo a crescere. Anche il punto prima abbiamo toccato un tema anche dei pagamenti, quindi io quello che le posso dire è che quando andiamo a vedere l'impegno del sistema bancario nei confronti del mondo delle imprese, sempre numeri alla mano, vediamo che non è molto lontano dal 55-56% del prodotto interno lordo. In Germania il credito bancario al sistema delle imprese è circa la metà. Quindi solo per dire, quando si parla di sistema bancocentrico parliamo di numeri alla mano, di una descrizione corretta di quella che è la situazione. Cerchiamo, e poi io parlo evidentemente, rappresento la nostra banca, ma credo che valga comunque sia per anche per il sistema. Abbiamo sempre cercato di dare l'appoggio e di permettere ai nostri clienti di realizzare i loro progetti. Certamente quello che abbiamo vissuto in questi mesi lo conosciamo tutti, una crisi del debito sovrano, un inasprimento delle regole, la chiusura dei mercati, tutto questo ha avuto chiaramente un impatto. Abbiamo un peso delle sofferenze che è molto importante, quello che le posso dire è che le imprese che hanno dimostrato la capacità di competere hanno sempre avuto credito. Certamente questo è un momento complesso, difficile, ma quello che è importante dire è che noi dobbiamo cercare di finanziare le buone imprese. E lo stiamo facendo, cerchiamo di stare vicino anche nei momenti difficili, pensi anche alla moratoria, è stata nuovamente intesa, cerchiamo di avere sempre un dialogo costruttivo, ma è evidente che quando non c'è, se continuiamo a affrontare anno dopo anno uno sgretolamento, una situazione di difficoltà a livello economico, il problema è quello. Quindi credo, cioè, voi potreste tornare a non si possa scindere il tema dell'indebitamento rispetto a quello che, cioè, ma voi potreste tornare a prestare, cioè a interrompere questo calo nel momento in cui vedete una ripresa del PIL, non ho capito? No, noi quello che cerchiamo di fare è stare vicino alle imprese. Poi lei consideri che i numeri che lei ha appena letto sono anche influenzati dal fatto che in questi ultimi mesi si sono riaperti i mercati dei capitali e tutte le grandi aziende si sono abbondantemente finanziate e hanno anche ridato i loro prestiti, li hanno ridati alle banche, per cui quel lato anche sovrastima quella che è stata la flessione. Quindi è solo per dire, noi abbiamo un obbligo, quello di cercare di stare vicino alle aziende, soprattutto anzi alle aziende che hanno la capacità di stare sul mercato. Stiamo cercando di stare vicino a un momento come questo, come quello attuale, vicino comunque anche alle aziende che stanno attraversando difficoltà, cerchiamo di farlo responsabilmente, ma per dire come se ne esce, noi abbiamo, le aziende si sono ricapitalizzate, stiamo affrontando le difficoltà insieme a anche gli altri soggetti economici. Credo che sia importante a questo punto, quando si parla delle prospettive e delle priorità, è proprio cercare di avviare dei provvedimenti per riavviare la crescita. Grazie all'amministratore delegato del gruppo BNL Fabio Gallia. Vedo che alcuni ascoltatori non sono d'accordo, dicono che invece le banche, anche la sua, continuano a non prestare. Comunque, ormai il nostro tempo è finito. Grazie di nuovo a Fabio Gallia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana a tutti voi in ascolto. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.